Hola a todos, soy Alejandro González y hoy tengo el placer de tener conmigo a Diego Marani. Hola Diego. Buongiorno. Diego es un escritor italiano, traductor y columnista que nació en Ferrara, en Italia, y que en 1996, mientras trabajaba como traductor para el Consejo de la Unión Europea, ideó el Europanto, un lenguaje, digamos, de una especie de broma, como él la denomina muchas veces, que es una mezcla de, no sabría decir si mezcla de idiomas europeos o de ideas europeas, él después no lo especificará más. Actualmente Diego trabaja como policy officer para la DGT Interpretación de la Comisión y también pasó tiempo en la unidad de política de multilingüismo. Su trabajo actualmente es promover la política multilingüista y se encarga también de las relaciones entre las universidades y las organizaciones internacionales en todo lo relacionado con la formación de profesionales de la lengua. Tras esta pequeña introducción, voy a darle la palabra a Diego para que nos explique en primer lugar qué es el Europanto con sus propias palabras, ya que él es el pater de esta lengua, llamémosla así. También diré que esta va a ser una entrevista, un poco especial porque va a ser multilingüe. Así que a partir de aquí yo ya no sé en qué idioma seguiremos o en qué idioma terminaremos. Puede que incluso acabemos hablando Europanto. Así que, Diego, ¿qué es el Europanto y cómo nació esa idea? Bueno, empezamos hablando Europanto. Europanto es una mixtura de diferentes lenguas que tú can siempre hable sonder mistakes, porque en Europanto siempre todo es correcto. Por speak fluente Europanto, tú basta de mix palabras from diferentes lenguas, und voilà que tú es perfecte Europanto speakante. Yo he de reconocer que eso, aunque parece fácil, a mí por lo menos me pareció muy difícil cuando he intentado hablar Europanto, porque uno, aunque domine lenguas o sepa lenguas, intenta no mezclarlas, sobre todo si se dedica a ello profesionalmente, ya sea traductor, intérprete o cualquier otra profesión relacionada con la lengua. Y parece fácil, pero uno intenta no mezclar para no, digamos, entre comillas, contaminar esa lengua que está hablando, su trabajo, y a la hora de mezclarlo no parece tan obvio. Así que yo invito a la gente que lo intente porque lo que acaba de hacer Diego, que parece fácil, no lo es tanto. Verissimo, verissimo. E la prima cosa che devo dire è che, come hai detto tu, Europanto è una broma, è uno scherzo, una provocazione linguistica, un strumento di lucha contro l'integralismo linguistico di molte persone in Europa. La mia idea non è quella di creare una lingua internazionale artificiale come l'esperanto o come le tante altre che sono state inventate in passato. Io sono contro le lingue artificiali, mi piacciono di più quelle naturali. La mia idea è, con questo gioco, di far vedere che le lingue si assomigliano, che le lingue hanno tutte qualcosa in comune, anche le più diverse. E del resto gli interpreti e i traduttori sono quelli che se ne rendono maggiormente conto per la loro formazione e per il loro lavoro. Ma la gente comune spesso non vede queste ovvietà e si fa impaurire dalle altre lingue solo per il fatto di non conoscerne la grammatica, di non padroneggiarne le regole. Mais les règles d'une langue ne sont pas un dogme, ce n'est pas la Bible. Les règles d'une langue ne sont pas définies à l'avance. Vous le savez bien tous. Vous tous qui êtes des professionnels de la langue, la grammaire d'une langue n'est que la photographie d'une langue dans un moment précis de son évolution. Donc tout est relatif dans une grammaire, tout est passager. Le jeu de l'Europanto a justement ce but de mettre en évidence le fait que les langues se sont toujours mélangées, surtout en Europe, qu'elles se sont contaminées l'une avec l'autre, que même les plus éloignées ont quelque chose en commun, que ce soit des racines très anciennes ou que ce soit la fréquentation qui a produit cette proximité. Bien sûr, moi aussi j'ai le même problème que vous en jouant avec le Ropanto. Je dois faire très attention parce que si j'en abuse, je risque de contaminer et saper à la racine mes connaissances linguistiques et des langues vraies que j'ai apprises avec tant de peine. Donc, c'est vrai, le Ropanto est un jeu dans lequel il ne faut pas excéder. Do you also have written a book in Europanto called Las Aventures des Inspector Cabillot? What is the purpose of this? I don't know if it's a comic book. I think like a comic book is an inspector who has to learn Europanto because he has to solve some problem. What is the aim of this comic book, if you have, as you said, the Europanto for you is just a way to push people to learn languages and not to learn it as a language itself. The collection of short stories, Las Aventuras des Inspector Cabillot, is true literature. I wanted to show that even with an invented and unexisting language, you could tell stories, you can build a plot. And as you said, it is a satire, it is a funny book. Because there I put in place an inspector of some kind of European police, and the main pattern of his life is that he has to learn Europanto. And this is very hard for him, and his boss wants him to learn Europanto, so he has to pass an exam each year to check his knowledge of Europanto. Besides this, my inspector Cabillo has to conduct inquiries all over Europe about very funny things and very funny stories. I wanted it to be a satire, to be a funny book, because in this way, when you are laughing while reading it, you are more encouraged to try to understand this language, a language, I insist, that doesn't exist. Things that doesn't that don't exist in the end run the risk of existing simply for the fact that you write in a language, in an inexisting language, and a text is there, you can read it. You can understand, then suddenly a language that didn't exist now exists. This is the way Europanto has been presented, for example, by the American website Ethnologue, where Europanto is defined as a language spoken in the European institutions' buildings. This is obviously not true. I am the only living speaker of Europanto. And yes, in a way, we do speak some kind of Europanto here, but not to the excess I take mine version of Europanto. Europanto, again, doesn't exist but is a true process. Think of your language, think of how it was spoken 100 years ago or 500 years ago, and you will see that it has been a mezcla all the time, and it is going on like a melange all the time. This is the nature of language. And, well, you very well know all this as you are specialists of languages yourself. Sé que esta puede ser una pregunta muy polémica, pero entonces nosotros como profesionales de la lengua no deberíamos mantener hasta cierto punto a raya esa mezcla, hasta cierto punto, para no contaminar más de lo debido, más de la forma natural, nuestras propias lenguas, porque sé que tú crees en las lenguas de verdad, entre comillas. Sì, come ho detto, l'Europanto è un gioco, non è una lingua, io non lo presento e non lo propongo come una lingua. Per me una lingua deve avere una cultura dietro per essere vera, per essere autentica, anche se in questo campo è difficile avere opinioni certe e durature, perché se pensiamo all'inglese oggi, ci accorgiamo che l'inglese oggi ha delle caratteristiche linguistiche mai viste prima. Non dimentichiamo che l'inglese oggi è parlato più da stranieri che da madrelingua. E quindi siamo qui in presenza di una lingua che, proprio come una lingua artificiale, non ha necessariamente una cultura dietro, se non altro non una sola cultura dietro. Pensiamo all'inglese che si parla in queste istituzioni. In maggioranza è un inglese parlato da stranieri. E quindi è un inglese che non ha alle spalle una cultura specifica legata a quella lingua. È un inglese che si nutre del background culturale di ogni locutore e che è diverso. Allora, questo fenomeno, che è già stato notato da linguisti come David Crystal, porta ha una semplificazione fortissima della lingua. L'inglese internazionale è fortemente semplificato, ma resta comunque una lingua efficace, perché in queste istituzioni in questa lingua si lavora e si scrive. Certo, è vero, con dei limiti e con delle difficoltà, ma possiamo dire che qui esiste un europanto inglese, uno dei tanti che esistono nel mondo, perché ormai c'è un inglese asiatico, c'è un inglese nordamericano, oltre all'inglese britannico, e c'è anche il nostro inglese europeo, un inglese parlato qui, che funziona e che di fatto, se non proprio una lingua artificiale, è una lingua altra, diversa, un fenomeno nuovo nel campo delle lingue. Ecco perché io esito sempre a proclamare verità parlando di lingue. Le mie sono esplorazioni, sono così tentativi di effettuare in provetta esperimenti linguistici che la lingua vera mette dei secoli a sviluppare. Ecco, il mio miscuglio è sicuramente un'invenzione, una cosa provvisoria, una cosa assolutamente arbitraria, ma è molto simile al processo che ha portato dal latino alle lingue neolatine di oggi e dalle antiche lingue germaniche alle lingue germaniche di oggi. Quindi in fondo niente di nuovo sotto il sole, solo che oggi con l'accelerazione dei media forse vediamo più facilmente questa ibridizzazione delle lingue, questo continuo miscuglio. Donc, Diego, tu penses que l'anglais continuera à être dans l'avenir la langue de communication du monde, ou est-ce que ça changera dans le futur et ça ira vers d'autres langues, ou dans une sorte de langue plus artificielle encore, et on ne pourrait pas l'appeler anglais désormais? Non, je n'arrive pas à penser si loin, j'arrive à penser jusqu'après-demain, et je ne peux pas avoir des visions sur des thèmes tellement vastes. Ce que je vois, mais vous pouvez le voir vous tous, c'est que l'anglais développe désormais des variantes qui deviennent des langues différentes, bien sûr très similaires, mais avec des usages de mots différents, même parfois des constructions différentes. Et on voit bien sûr que dans le monde se développent désormais des gros ensembles linguistiques qui s'expriment par les langues les plus importantes du monde. Mais cela n'empêche pas l'existence de toutes les autres langues et parfois le développement, l'essor des langues qui étaient autrefois négligées, oubliées, réprimées. Je pense aux langues régionales que vous avez en Espagne et que nous avons aussi en Italie et qui aujourd'hui retrouvent un nouveau souffle. Il est difficile de faire des prévisions et d'imaginer, comme je l'ai dit avant, ce qui arrive aux langues parce que les langues sont trop attachées à notre nature humaine et elles servent des objectifs très variés. Les langues ne sont pas faites seulement pour communiquer. Les langues souvent servent un objectif tout à fait différent. Les langues nous sont importantes et nous les utilisons pour nous cacher, pour nous distinguer, pour nous reconnaître. Lorsque je rencontre quelqu'un qui dit qu'il vient de ma ville en Italie, la première chose que j'ai fait, c'est de lui adresser la parole dans mon dialecte pour vérifier, pour contrôler si c'est vrai ou si c'est pas la ville à côté. Ou dans mon accent et dans mon dialecte, de quelle variété, à quelle variété il appartient. Tout ça est très tribal, mais ça fait partie de notre nature humaine, ça fait partie de notre besoin d'identité et de reconnaissance. Donc voilà ce que je peux dire en conclusion sur le panorama futur des langues. Je crois que il y aura toujours des grandes langues de communication internationale qu'elles évolueront sans cesse et qu'il y aura toujours des langues locales, régionales, des dialectes, même des nouvelles qui se développeront à l'avenir. Yeah, I know that the last one was a tricky question, but for Europe, because I think we can speculate more about our Europe, our region. I've heard you say sometimes that the future of Europe or the future of people in Europe is to at least to talk their mother tongue and know the language of their neighbors. Of the neighbor countries, at least. Do you think that will happen in a future? It will be possible to talk at least, or to know in a sort of sesquilinguismo, that idea of knowing a language without talking that language? I think that in Europe we will have a very different landscape according to where you go. There will be places where you will have some kind of multilingualism, and some others where language knowledge will be more limited because less necessary. Surely, in the border regions, it is going to be more and more true that some kind of bilingualism or multilingualism will develop. Together with, I think, the constant pattern of an international language that will be English. There will be, on the contrary, other places where you will need less knowledge of language for your everyday life. Nonetheless, even there, you might be exposed to linguistic diversity. I think to big cities all around Europe. I think to marginal, peripheral places in the south, in the deep south, and in the deep north. But there you might have a different linguistic variety brought there by migration. Think of your cities in Spain, big and small cities, where you find today a linguistic variety due to migrants that bring there their own languages, and these languages are not very often European Union languages, but third countries languages, African languages, Asian languages. So this will bring inevitably a linguistic variety, and it might be useful there to learn a few words of Chinese or Arabic or something else. It will depend a lot on the composition of the population. So if I can make a forecast, I imagine there will be a widespread knowledge of some kind of English, and locally, in some places, a shared language on borders, and a much more complex linguistic landscape in big cities. Cambiando ahora un poco de tema, antes has dicho que te sientes que eres el único hablante vivo de Europanto. ¿No te sientes a veces como el personaje de tu novela El último bostiaco, muchas veces un incomprendido? Y con esto me gustaría pasar al otro ámbito de tu carrera, que es el de escritor. Tú también eres escritor, has escrito novelas y en ellas el aspecto lingüístico está siempre muy presente, pero sobre todo en tres de ellas, en El intérprete, El último bostiaco o Nueva gramática finlandesa, que en español se tradujo por Memoria callada. ¿Cómo has utilizado tus novelas como herramienta para expresar cómo concibes tú la lengua? ¿Ha sido realmente un instrumento para expresar esas ideas lingüísticas o ha sido al contrario? ¿Tú escribías y, como es un tema obviamente que te interesa, surgió esa idea de escribir acerca de la lengua? No, è un tema che mi interessa e che mi ha sempre appassionato, questo della lingua. Fin da quando ero bambino, notavo nel mio paese l'esistenza del dialetto, la differenza fra italiano e dialetto, appartenevano a mondi diversi e solo parlando le due si apparteneva a tutti e due i mondi. Nei miei romanzi ho avuto la fortuna di riuscire a inventare storie che coinvolgessero l'argomento linguistico in un modo vivo. In fondo i protagonisti dei miei primi tre romanzi sono proprio le lingue, il fenomeno linguistico, che chiaramente ho affidato a dei personaggi. In ognuno di questi tre romanzi io esploro aspetti diversi della lingua. In Nuova grammatica finlandese, Memoria callada in spagnolo, racconto l'esperienza immaginaria di un uomo che ha perduto la memoria ma anche la lingua. Non sa più che lingua parlava, non sa più quindi a che cultura apparteneva, non ha più memoria di nulla. Ecco, questo esperimento, questo romanzo mi è servito per riflettere sulla questione dell'identità. Noi qui in Europa siamo fatti di tante identità. Le nostre identità nazionali sono vecchie di secoli e sono spesso costruite l'una contro l'altra, una identità opposta all'identità del vicino. Abbiamo letture diverse della nostra storia comune. Ecco, se vogliamo creare un'Europa unita, dovremmo a un certo punto, e comincia a essere tardi, affrontare questo aspetto. Affrontare il discorso di una percezione comune della nostra storia, che si sovrapponga alle nostre percezioni nazionali e quindi alle nostre identità nazionali. Senza nulla togliere alle nostre identità nazionali e anche regionali, che oggi esistono e che si possono esprimere, dobbiamo in un qualche modo cercare di valorizzare anche quello che ci lega, che abbiamo in comune se vogliamo sviluppare uno spirito di appartenenza europeo. Questo è il tema che ho affrontato nella nuova grammatica finlandese. Nell'ultimo dei vostiachi, è l'ultimo vostiaco in spagnolo, ho affrontato un tema anche oggi molto attuale, molto sentito, che è quello della morte di una lingua. Molti di noi sono preoccupati perché temono che la propria lingua sia invasa, soffocata, conquistata dalle altre. E questo è anche un meccanismo che porta alla protezione di lingue non più usate o di lingue parlate da poca gente, oppure che porta a un'estrema sensibilità per le lingue minoritarie e regionali, anche appunto a comportamenti che, come ho detto prima, assomigliano a certi integralismi religiosi. Ci sono degli integralismi linguistici oggi nel nostro continente che non sono giustificati, a mio avviso. Tanto più che la morte della lingua non è un fenomeno scientificamente certo, cioè nessun linguista, nessuno specialista è mai riuscito a dare una definizione universalmente accettabile della morte di una lingua. Per esempio, possiamo dire che il latino è morto. Sì, il latino è proprio morto perché non lo parla più nessuno, non si sente più parlare latino in giro. Ma allo stesso modo e con uguale legittimità, possiamo dire che il latino è vivo e vegeto e sta benissimo, al punto che si è moltiplicato in 5 o 6 varianti: il portoghese, l'italiano, lo spagnolo, il catalano, il rumeno. Allora, ecco un'altra visione della lingua che può essere ugualmente vera. Quand'è che una lingua muore? In realtà nessuna lingua muore mai. Le lingue semplicemente si trasformano, vengono assorbite dalle lingue che hanno vicino tante volte, ma lasciando un'impronta in queste lingue. È successo a tante lingue che conosciamo, faccio solo l'esempio dell'egiziano. L'arabo egiziano è fortemente influenzato dal copto che ha assorbito. Il copto non esiste più, ma ha contaminato, morendo, se possiamo così dire, l'egiziano, l'arabo egiziano di oggi. Ecco quindi che la visione, la concezione della morte di una lingua è molto più mitigata se la si vede in questa chiave. Nell'ultimo Vostiaco narro proprio questo, narro la storia di un uomo che è rimasto l'ultimo locutore di una lingua sconosciuta del nord della Russia e non può più parlare con nessuno perché non c'è più nessuno che parla la sua lingua. L'avventura è divertente e anche qui molto comica, perché questa sua situazione lo porta ad avere disavventure, ma anche a alcuni divertenti episodi con un lieto fine. E questo è il modo in cui ho voluto affrontare il tema della morte della lingua. Il terzo romanzo, che non è ancora tradotto in spagnolo, L'interprete, è invece quello che interpreti e traduttori capiscono molto di più come esperienza, ed è vertigine, questa onnipotenza che si prova quando si parlano tante lingue. È una droga parlare le lingue, e voi lo sapete, è una droga che non si riesce ad abbandonare, si può diventare solo sempre più tossici. Vero. Perché parlando le lingue ci si apre nuovi mondi, ci si lascia prendere da sogni di onnipotenza. Se io posso parlare con tutti e posso capire tutti, io sono tante persone allo stesso modo, non sono solo Diego Marani italiano, sono anche francese, sono anche olandese, sono anche finlandese. In fondo sfuggo al mio destino, perché quando la mia storia è finita in una lingua, io salto in quell'altra e così mi garantisco l'eternità. Ecco, questo è il personaggio dell'interprete, è un interprete appunto come noi, che drogato da troppe lingue viene preso da una particolare forma di follia, che in fondo non è follia, è solo una grande illuminazione, come del resto spesso poi la follia è. Nei miei altri romanzi non ho più parlato così specificamente e esplicitamente di lingue, ma la lingua è sempre presente in un modo o nell'altro, anche negli ultimi che ho pubblicato. Pues muchísimas gracias, Diego, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, para mí ha sido un placer escucharte. Gracias por compartir todas estas ideas, tus obras, el Europanto con nosotros. Espero que a los oyentes les haya gustado la entrevista y lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.